It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli sono entrate le truppe del colonnello Unghiute, Kappa e Drago accusano il pollo in sbattimento. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Drago, li senti? Eh sì, poverini, senti? Poverini, eh. Il colonnello Unghiute ci ha messo un po' a prendere confidenza con la fabbrica, però adesso è a pieno regime. Se continua così, in due giorni non c'è più un pollo vivo. Hai visto che cosa hai combinato, pollo in sbattimento, a chiamare questi feroci guerriglieri unghiutisti? Cosa sono? Unghiutisti. Unghiutisti. Infatti sono in sbattimento. Meno male che finora non hanno ancora ceduto alla loro passione per la carne umana. Sì. Altro che. Ma guardate che toccherà anche a voi, prima o poi. Ma sì, ma stai zitto, poi le esecuzioni stanno andando avanti da chissà quanto, hanno cominciato che era mezzanotte. Adesso sono le... Sono... È mezzanotte? Sempre mezzanotte. Sì, ma tu come hai fatto a imboscarti fino adesso? Mi sono nascosto nella cappella. Ma quale cappella? La cappella di San Gallo. San Gallo? Ah, Sankt Gallen, in Svizzera. Ma no, che Svizzera? Qui, no? In fabbrica, la cappella della fabbrica. Quello è un luogo sacro, allora mi sono messo nel tabernacolo. Ma come? Polo, ma ti sembra il caso di essere così blasfemo? Il tabernacolo? Vabbè, lì non mi trovano, Ci credo. Sto un po' stretto, ma sicuro. Scusa, c'è anche un prete lì nella cappella? No, c'è un frate. Fra qualunque. Fra qualunque? Perché un tipo talmente modesto che quando gli hanno chiesto che nome voleva avere da frate ha detto qualunque. E così è rimasto fra qualunque. Ma scusa, ma tu vai d'accordo con i religiosi? Non mi sembra. Qualche volta io e fra qualunque litighiamo su argomenti teologici complessi. Sì, tipo l'immortalità dell'anima. Sì, certo, l'immortalità dell'anima, argomento su cui si è discusso per 500 anni e adesso siamo qui tutti che aspettiamo l'opinione di fra qualunque del pollo in sbattimento. No, perché io? Io sto dalla parte di Pomponazzi, Di chi? Di Pietro Pomponazzi. Pomponazzi? Un filosofo del 500. E per fra qualunque, Pomponazzi è un eretico aristotelico, Ma alla fine chi vince nella disputa sull'immortalità dell'anima tra te e lui? È dura avere ragione con un frate, Sì. Perché in seminario li insegnano come rispondere alle domande degli atei e degli scettici, E quindi hanno una lista di domande insidiose, con le risposte già date. Quindi se tu li citi Pomponazzi, lui ti cita subito Giulio II, che era un papa tremendo di quegli anni lì. Durissima, Durissima, così durissima. Sì, però alla fine vinco io, Perché? Perché gli do una beccata e lo faccio star zitto. Ma come? Dai una beccata fra qualunque? Sì. Ma come? Ma ti ospita, ti sta salvando da morte sicura. Ma senti lì. Vabbè, ma io il becco ce l'ho e lo devo usare, no? Hai l'automobile rotta, vendila al pollo. Metti la giacca più brutta, fai ridere il pollo. Fai vedere che sei tosto, conosci i tuoi polli. Vuoi andare a dormire presto, vai a letto coi polli. Qui se muo' Polo Sena, il pollo è espiatorio. Ti servi di me per sembrare serio, un pollo è per sempre, è amico dell'uomo, è più di un diamante, un amante per te. Chicken Jeep, crap! Ecco Polastri, questa è la cappella di San Gallo. È bella, Sankt Gallen. Ma basta, Sankt Gallen. Ma è San Gallo perché siamo in una fabbrica di polli. Non c'entra con quello svizzero. qui è un posto tranquillo. Vabbè, tranquillo. Qui le truppe del colonnello Unghiute non oseranno mai profanare un luogo sacro. Vabbè, se lo dici tu, non è che... Drago, Drago, però parla a bassa voce. Ma perché? Dai, intanto non c'è nessuno. Che rispetto. Poi dovrebbe esserci fra qualunque, no? Ah, già, l'immortalità dell'anima. No, no, ma oggi fra qualunque non c'è. Ma come mai? Ah, non lo so. Sono venuti a prenderlo oggi due uomini dell'amministratore delegato. L'amministratore delegato sta ricorrendo a tutti i mezzi possibili pur di fare un accordo col colonnello Unghiute. Anche con gli uomini di chiesa. E beh, mica scemo, chiamalo. E comunque fra qualunque non c'è, però c'è il confessionale elettrico. Che cosa? Il confessionale elettrico, questo qua. Ma mi sembra un normalissimo confessionale. Sembra, invece sì. È elettrico. Ma è elettrico, scusa, cosa vuol dire? Che se ti metti dentro ti fulmina? Come la sedia elettrica? Ma no! Adesso vi spiego. Visto che fra qualunque è sempre impegnato perché segna scuola, organizza le gite dei pulcini degli scout, consola le galenelle vedove. Sì. E che adesso di quelle ce n'è tante, Sì, tutte da consolare. E poi organizza ritiri spirituali. E poi tutte le cose che fanno i frati moderni, no? Visto tutto questo, lui non ha più tempo per confessare i polli fedeli. Ah, ho capito, proprio una questione. No, è oggettiva. Ve lo posso assicurare io. Non ha più tempo. E quindi allora c'è il confessionale elettrico, Scusa, ma come funziona questa trappola? Venite qua. Vedete quella fessura lì in basso? Sì. Ad altezza pollo? Ah no, aspetta. Sì. Ecco. E qui mette il gettone. Quale gettone? Il gettone per far funzionare il confessionale elettrico. Ci va il gettone. È un confessionale a gettone. Non riesco a capire. Dentro il confessionale chi c'è? Ma nessuno, no? È vuoto. Nessuno. C'è un hard disk da 20 giga. Normale, Che lo puoi comprare anche tu. Sì. E questo contiene un numero spropositato di assoluzioni in MP3. MP3. Vengono scelte dalla macchina a seconda di quello che confessa il peccatore. Scusa, tu metti una moneta qui. In questo. E la macchina. Ma perché non entra? No, non metti una moneta. Infatti. Metti il gettone. Ma quale gettone, dai? Ma il gettone sagomato, no? Tipo quello delle sale giochi degli anni 80. Ma dove lo prendi? Perché. Da fra qualunque, no? Sì, ma lui non c'è mai. Ho capito, quello è un problema, infatti. E quindi. Io però il gettone ce l'ho, Ce l'ho sempre. Anche più di uno. Così i polli fedeli si rivolgono a me. Ma non sapevo che i polli atei come te si confessassero, però. Infatti, io rubo i gettoni a fra qualunque. Ah, ho capito. E li rivendo. A prezzo maggiorato. E mica li uso per confessarmi, Ah no, ecco. Adesso vi faccio vedere come funziona il confessionale. Così imparate qualcosa di nuovo, Ecco. Fedele, confessa i tuoi peccati a voce sufficientemente alta affinché il microfono possa registrarla con la dovuta efficacia. Poi premi il tasto Enter. Grazie. Padre. Dimmi, figliolo. Io ho peccato di indifferenza verso lo stato in cui versano migliaia di polli. Lo so, forse avrei potuto fare di meglio per salvarne qualche decina. Sì. Però poi il senso di inutilità ha prevalso e io non ho più mosso un dito. Poi? Come? Continua. Ma funziona sta macchina, non si capisce bene cosa dice. Premi il tasto resume. Ma qual è il resume? Premi il tasto resume. Qui c'è una sfera, sarà questo qua? Sfera. Padre, mi sento complice del potere che schiaccia gli oppressi e vorrei trovare conforto nella parola del Signore. Cosa faccio adesso? Schiaccio Enter? Fedele, l'egoismo è una brutta bestia che va affrontata con forza e determinazione. Essere egoisti apparenta al demonio. Il tuo è un peccato gravissimo che potrebbe anche avere conseguenze negative sull'aldilà. Sì, non ho mai sperato nemmeno di godermi la pensione, figuriamoci il paradiso. Per saldare il tuo conto in sospeso con il giudizio divino, ti posso consigliare di pagare il condono spirituale. Il? Condono spirituale, che vale per tutti i peccati commessi nell'anno solare in corso, ad esclusione di quelli all'allegato 1. Allegato 1 al quale puoi accedere premendo adesso il tasto Enter. Se invece vuoi continuare a peccare, rischiando così di bruciare all'inferno per l'eternità, premi pure il tasto Stop. Amen. Stop. Che cosa succederà adesso? Si spalancheranno le porte del paradiso per il peccatore K? Oppure il mancato pagamento del condono spirituale lo scaraventerà tra le fiamme eterne dell'inferno? Lo scoprirete solo domani, sintonizzandovi a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo celestiale allestimento del... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. Night. Barumel.